Il gruppo è basato proprio sull'istinto, nel senso che la prima cosa che abbiamo cercato di fare e la prima cosa a cui abbiamo cercato di tenere fede è quella di fare le robe come ci venivano, parlare delle cose che sentiamo e fare la musica nostra per conto nostro. Bene, facciamo perché ne facciamo un po'. Ci teniamo a dirlo e ci teniamo anche a dire che purtroppo questa musica in Italia non è capita da molti all'interno di chi lavora nella musica, quindi noi la musica ce la facciamo per lo più da soli, i testi li facciamo noi e parliamo delle cose che sentiamo. Questo qua. In quale tonalità inizia? Nessuna tonalità, 4/4. Nessuna tonalità? Non si può scrivere musica senza tonalità. Non posso scrivere questa musica in nessun altro modo. La musica non sarà più la stessa d'ora in poi.